561. Kugelhupf. Farina d'Ungheria o finissima, grammi 200. Burro, grammi 100. Zucchero, grammi 50. Uva sultanina, grammi 50. Lievito di birra, grammi 30. Uova, uno intero e due rossi. Sale, un pizzico. Odore di scorza di limone. Latte quanto basta. Intridete il lievito con latte tiepido e un pugno della detta farina per formare un piccolo pane piuttosto sodo. Fategli un taglio in croce e ponetelo in una cazzarolina con un velo di latte sotto, coperta e vicina al fuoco, badando che questo non la scaldi troppo. D'inverno sciogliete il burro a bagnomaria. Poi lavoratelo alquanto con l'uovo intero, indi versate lo zucchero e poi la farina, i rossi d'uovo, il sale e l'odore, mescolando bene. Ora aggiungete il lievito, che nel frattempo avrà già gonfiato, e con cucchiaiate di latte tiepido, versate una alla volta, lavorate il composto con un mestolo, entro a una catinella per più di mezz'ora, riducendolo a una consistenza alquanto liquida, non però troppo. Per ultimo versate l'uva e mettetelo in uno stampo liscio, imburrato e spolverizzato di zucchero a velo, misto a farina, ove il composto non raggiunga la metà del vaso che porrete ben coperto in caldana, o in un luogo di temperatura tiepida a lievitare, al che ci vorranno 2 o 3 ore. Quando sarà ben cresciuto da arrivare alla bocca del vaso, mettetelo in forno a calore non troppo ardente, sformatelo di accio, spolverizzatelo di zucchero a velo o, se credete, questo è a piacere, annaffiatelo col rum.